donna così capire incannolata. Trema la terra quando li sciunditi. Sola la santa mi si è pintaiata. La gente va larghe butta siti. A chi lo posto chi nocciati. Numa su di garompuli pareti. Guardate in cielo belle piriditi. E paraga con l'angeli barrati.